Sabato 8 aprile 2006 alle ore 17. Il Circolo Carlo Banza Locarno propone un libro per aperitivo, letture su L'economia partecipativa di Michael Albert a cura di Peter. Registrazione a cura di www.scatolanera.ch. Allora, questi incontri, quindi presentazione di libri che ci sono piaciuti o che anche non ci sono piaciuti, perché si può, al limite si può anche fare una presentazione di un testo che è proprio vomitevole, che uno proprio odia, per spiegare agli altri perché non leggerlo, al limite, no? E io invece appunto per questa presentazione qui ho scelto un libro che mi ha entusiasmato, mi è piaciuto, e soprattutto per un motivo: quando ho incominciato a leggerlo mi sono accorto che questo qui, questo autore, Michael Albert, affronta il discorso di una società diversa da questa attuale, partendo dall'idea della desiderabilità, cioè se un altro sistema è più desiderabile di questo. Quindi non tanto se è più giusto, ma se è più interessante vivere in un contesto diverso che in quello che viviamo adesso. E questo qui è un aspetto estremamente affascinante, perché molto spesso ci accorgiamo che nel contesto attuale predomina l'attenzione per quello che questa società qui comunque ti dà in termini di possibilità di consumo, di possibilità di svago, di tutte queste cose qui, per cui c'è un po' una paura di dire: ma se andiamo in un altro sistema cosa ci resta? Ci resta più povertà per tutti, ci resta più lavoro da fare, insomma. C'è un po' questa paura, no? Di trovarci in un sistema che non dà più tutti questi beni che noi abbiamo. Adesso ovviamente parlo nell'ottica occidentale ricca, chiaramente, no? Perché cambiando ottica tutto questo discorso qui non funziona più in questo modo, però funziona nei termini descritti da questo autore, proprio perché lui parte da quello che è fattibile per cambiare le cose qui, affinché poi ci sia anche un maggiore benessere altrove, proprio perché noi non incidiamo più pesantemente sugli altri paesi, no? Questo è il punto di partenza. E mi sono trovato un po' confrontato anche con l'attualità, perché nel documento di convocazione della manifestazione del 1° maggio del Mulino, ho letto che a un certo punto parlano di, c'è una citazione di un tipo che non so chi sia, ma comunque dice: ecco, il comunismo consiste anche nel squarciare questo velo che il capitalismo ha creato sulla società per scoprire quello che c'è sotto. Io non vorrei che quello che c'è sotto potesse sembrare a molti, come forse a molti sembra in effetti, un buco nero, una situazione dove tu non sai più cosa ti aspetta. E questo timore, penso che rendiamoci conto, siamo pochissimi anarchici, siamo non molto più comunisti, non sto parlando dei DS, sto parlando di gente che vuole veramente cambiare le cose, e non siamo tantissimi. E rendere appetibile il discorso di un cambiamento non è così evidente quando uno dice: vabbè, ma cosa vuoi da me? Io il mio lavoro o non ce l'ho, però prendo la disoccupazione, poi vado là, mi compro il videoregistratore. Insomma, sono cose che funzionano anche in questo modo, sinceramente. Cioè, non è che è evidente la necessità del cambiamento. E qui il discorso della giustizia sociale regge o non regge, nel senso che noi sappiamo che questo sistema è profondamente ingiusto, però molti dicono: boh, è vero, padrone mi sfrutta, ma alla fine mi dà lavoro. Cioè, perché dovrei cambiare una situazione che comunque qualche prospettiva me la dà? E a proposito di qualche prospettiva, mi viene in mente un altro discorso, che è un po' quello che gli sto rompendo l'anima a lui da tempo, perché ne stiamo discutendo spesso, è il discorso del lavoro precario. Cioè, è una cosa che a me mi fa molto riflettere, questo fatto che questa è solo l'introduzione, non è che parla di queste cose il libro, dopo entro nel merito, però mi sembra importante anche dire queste cose qui. Il lavoro precario viene oggi contestato, no? E molto giustamente, perché è comunque una situazione di disagio profondo, di ingiustizia, eccetera. Però viene contestato rivendicando il lavoro a tempo pieno, rivendicando il contratto a tempo indeterminato, rivendicando delle garanzie dal padronato, no? Rivendicando che qualcuno, un padrone, deve darti un lavoro, deve provvedere ai tuoi bisogni alla fine. È vero che tu rivendi la tua forza lavoro, però cosa succede? Alla fine tu chiedi praticamente di rientrare nella schiavitù salariale chiedendo un contratto a tempo indeterminato. Giriamola come vogliamo, ma è così, Cioè non è che se io rivendico un lavoro a tempo indeterminato, e mi riferisco adesso in particolare anche a quello che succede in Francia, per esempio, abbiamo pure questa situazione di lotta, di critica contro queste nuove disposizioni di primo impiego. Però di fatto cosa stiamo chiedendo? Stiamo chiedendo una qualcosa di diverso. Faccio un esempio, mi potrebbe venire in mente: se come movimento di antagonista io volessi chiedere qualcosa di diverso, allora chiederei, pur essendo anche questa una contraddizione, però chiederei: ballo tu Stato, allora, con i fondi, che sono comunque fondi pubblici di tutti, finanzia dei progetti di autogestione, finanzia delle cooperative, finanzia delle possibilità che noi possiamo costruire per uscire dal sistema del salariato. Invece no, ma questo succede anche in Italia. Anche in Italia abbiamo comunque un grosso movimento antagonista che si batte rivendicando per l'appunto di tornare sotto la schiavitù salariale. Il contratto a tempo indeterminato è un contratto comunque che tu rivendichi dal padrone di assumerti, no? E di darti un salario. Mettetela come volete, ma è così. Non è che c'è molto scampo da questo discorso. Dopo è vero che se io mi metto nella prospettiva, c'è comunque un discorso di difesa e un discorso di attacco, di offesa. A me mi sembra giustissimo che se un padrone ti licenzia, tu intervieni, dici no, non puoi farlo, insomma devi assumermi, devi tenermi, eccetera, che tu rivendichi più paga, che tu rivendichi più vacanze, che tu rivendichi tutto quello che vuoi, sono cose più che legittime e più che giuste. Questa è la difesa della classe operaia contro lo sfruttamento padronale. Però questa è la difesa, per l'appunto, in un'ottica alternativa, no? Il discorso è diverso. In un'ottica alternativa non puoi ancora tornare a perpetuare il capitalismo fino a Santa Madonna. Insomma, contratto a tempo indeterminato, scusatemi, ma è un po' questo. Ecco, in questo senso, per tornare al discorso del libro, questo libro qui dà appunto una prospettiva dove dice è possibile, è desiderabile un altro tipo di organizzazione dell'economia. E qui già devo dire una cosa, che questo libro parla di economia, quindi parla sostanzialmente solo di economia, ed è importante questo perché chi cerca delle risposte sul piano politico, ad esempio, cioè di organizzazione dello Stato, di organizzazione della società, di organizzazione dei sistemi di convivenza non economici, non troverà delle risposte in questo libro. Io non so se l'autore ha scritto, perché ho letto solo questo libro qui, il libro dell'economia partecipativa, non ne ho letti altri di lui, non so neanche se esistono in italiano, vabbè, comunque in questo libro qui di queste cose lui non parla. Lui parla come si potrebbe organizzare in modo diverso un'economia non più basata sullo sfruttamento. Qui è incredibile come questo autore riesce a far entusiasmare chi legge questo testo per le possibilità che dà a uscire da questo sistema, cioè rende molto plausibile la possibilità di organizzarsi in un modo diverso. E noi anarchici spesso succede cosa? Succede che quando uno ci chiede: ma tu dopo la rivoluzione come ci organizziamo? No? E molto spesso noi rispondiamo, ma guarda, non sta a me dirlo, saranno le libere federazioni, le libere comuni che decideranno come vorranno organizzare la propria economia, insomma basta che non ci sia sfruttamento, basta che ognuno sia libero, autonomo e via dicendo. Però questa risposta non è più così, secondo me è legittima, è giusta, però non risponde al bisogno che abbiamo appunto di dare un po' di colore, un po' di immagine a questo buco nero che possiamo creare, che c'è si intravede nello squarcio del velo che il capitalismo ha creato attorno alla società. No. Per entrare nel discorso che fa l'autore, bisogna dire che lui, appunto, è un discorso meramente economico, bisogna dire che lui parte dal presupposto, e questo anche è molto, molto intrigante, parte dal presupposto che diciamo, i privilegi che determinano diciamo, le disparità sociali non sono tanto dipendenti unicamente da quello che il marxismo ha detto, il prelievo del plusvalore, ma dipendono soprattutto dalla costruzione che noi diamo, dalla giustificazione, dalla costruzione immaginaria, teorica che noi diamo per legittimare i privilegi delle persone che quindi guadagnano di più o dominano di più, in virtù di che cosa? In virtù del talento, della maggiore intelligenza, presunta o affermata che sia, in virtù del genio, in virtù dell'eredità, in virtù di qualsiasi altra cosa che si possa dire. E l'autore incomincia la sua analisi dell'economia smontando proprio questi discorsi, dicendo, per fare un esempio, non c'è alcun motivo legittimo per cui chi ha un maggior talento, quindi ha avuto ha vinto la lotteria genetica, come si esprime lui, deve anche guadagnare di più, è già fortunato, perché deve essere doppiamente fortunato, cioè perché deve essere più ricco o più stimato in virtù di una cosa che la natura gli ha regalato, insomma, cioè ha già vinto una volta, perché per questo deve ancora essere remunerato 10, 100 miliardi di volte in più di qualsiasi altra persona. E questo discorso qui è importante, perché su questo si basa poi la teoria che lui sviluppa, che lui costruisce per questa economia partecipativa in contrapposizione a un'economia capitalista o in contrapposizione a un'economia di pianificazione socialista. Il suo discorso si articola in questo modo, lui descrive i consumatori e i produttori e crea un legame fra queste due entità. Ora, quando si legge questo libro, il primo momento è un attimo imbarazzante per chi non è pratico di cose economiche, perché la distinzione netta fra produttore e consumatori un attimino lascia spaesati, ma chi fa cosa, come funziona questa cosa? In realtà bisogna vedere un insieme di consumatori, tutti siamo consumatori dal neonato all'anziano, e un sottoinsieme di produttori che sono all'interno ovviamente di questo insieme di consumatori. Allora partiamo dall'insieme dei produttori, e cosa propone lui? Ecco, bisogna dire che un ultimo appunto sulla faccenda della società desiderabile, il suo ovviamente è un discorso di classe, cioè non per tutti la sua proposta di società è desiderabile, per chi perde i privilegi questa società può essere non immediatamente desiderabile, lo diventa più avanti quando si renderà conto che tutti stiamo meglio in questo tipo di organizzazione sociale, ma fino a quel momento lì, finché io devo perdere dei privilegi, chiaramente non desidero che le cose cambino, è ovvio. Quindi in questo senso è un discorso di classe, cioè lui si pone dalla parte di chi ha qualcosa da guadagnare, non di chi ha qualcosa da perdere da un tipo di società diversa, ovviamente. Ecco, però per tornare appunto alla faccenda della produzione, lui vede un sistema di unità produttive, fabbriche, officine, insomma qualsiasi cosa che produca, qualsiasi entità produttiva, e ne propone una totale riorganizzazione in senso autogestito, cioè con l'abolizione completa delle gerarchie, con l'abolizione completa della divisione del lavoro, e questo è forse uno degli aspetti più interessanti. Questo discorso qui, tra l'altro, lui lo riprende anche basandosi sull'esperienza spagnola del 36-37, cioè nel senso che ha dei riferimenti storici precisi quando propone queste cose. E non mi voglio dilungare sulla questione dell'abolizione delle gerarchie, eccetera, perché mi sembra abbastanza scontato, evidente che le cose debbano funzionare in modo diverso, come partecipazione diretta dei lavoratori in un'azienda autogestita, come è il discorso basilare dell'autogestione. Quello che può essere interessante è il suo discorso sui rapporti bilanciati, perché questa è una caratteristica specifica di questo modello che non ho trovato altrove così immediatamente che mi viene in mente. Questi rapporti bilanciati sono basati su questo, che lui dice: beh, alla fine, finché noi non rendiamo il lavoro ugualmente desiderabile per tutti, cioè che a tutti piaccia fare quello che fanno, costruiremo sempre dei privilegi non economici, però basati magari sul prestigio di quello che fai. Allora lui su questo è molto chiaro, dice: guardate, noi dobbiamo cambiare questo discorso qui del tu fai questo per tutta la vita, e dobbiamo fare in modo che ognuno faccia anche dei lavori diversi, cioè che il neurochirurgo faccia anche, adesso uso apposta un esempio molto forte, che un neurochirurgo faccia anche i turni di notte per assistere i pazienti come un'infermiera, no? Ecco, uso proprio questo esempio qui molto forte, perché è evidente che uno si dice: ma quante risorse sprechiamo in questo modo? Cioè tutte le capacità che ha il neurochirurgo, eccetera. Lui risponde, secondo me, in un modo abbastanza abile che fa riflettere: è vero, ognuno poi si organizzerà come meglio crede per evitare di sprecare risorse, però noi non ci rendiamo conto quante risorse schiacciate, oppresse, possiamo rivalutare dando delle responsabilità maggiori a chi non ne ha, cioè dando a questa infermiera, che non evidentemente la mansione di neurochirurgo perché non lo sa fare, però altre mansioni di responsabilità dove possa crescere, possa sviluppare delle competenze altrimenti non sarebbero emerse. E quindi in questo senso il discorso del lavoro bilanciato ha una sua logica, no? Proprio per far affiorare delle potenzialità sommerse, delle potenzialità oppresse dall'attuale sistema di divisione del lavoro, che poi anche il sistema di divisione del lavoro dell'economia pianificata socialista, non è che cambia di un granché questo discorso qui. A fianco a questo, ecco, lui si basa molto sulle, devo ancora aggiungere, su queste imprese in cui poi i lavoratori si organizzano in consigli. Si organizzano i consigli dal livello di reparto, per poi andare al livello più alto di quartiere, di zona, regione, e nazionale, sovranazionale, via dicendo. Ecco, cioè tutta questa gerarchia dei consigli che funziona ovviamente in modo estremamente democratico, in modo di far confluire dal basso verso l'alto tutti gli input che vengono dal singolo individuo. In questo modo è anche rispettoso dell'individuo il progetto di Adler. Però a me mi è venuto il dubbio, non so se è venuto anche voi ascoltandomi adesso, cioè Il modello che lui propone ricorda molto grandi aziende che si organizzano, però secondo me non sarà così evidente che ci saranno solo o prevalentemente delle grandi aziende in una società diversa. Io penso che quest'autore trascuri un pochettino il piccolo, nel senso che io immagino che ci saranno milioni di persone che non lavoreranno in una grande azienda, non lavoreranno in una fabbrica, non avranno neanche la possibilità di creare un consiglio, perché faranno il barbiere o il barista o la rotina o qualsiasi altra cosa, ma saranno persone singole che faranno delle attività artigianali, perché io immagino, e spero che sia anche così, che in una società diversa ci sia anche una rivalutazione al lavoro artigianale, che ci sia anche una rivalutazione della creatività manuale, che ci sia anche tutte queste cose qui, che ci siano anche i contadini singolarmente, che non necessariamente essere un'immensa azienda agricola di monocultura, ma che ci siano anche chi si tiene e vive col suo piccolo orto e vada al mercato o abbia una sua rete di spaccio, di smercio, dei suoi prodotti, ecco. E questo aspetto qui, secondo me, quest'autore qui, lo tralascio un attimo, perché lui si punta su le grandi unità produttive, le grandi unità di servizio anche, che sono importantissime. È chiaro che se non c'è l'acciaieria non puoi neanche tagliarti il pane, voglio dire. Ci sono dei discorsi fondamentali in questo qui, però in una società diversa io non so se lui tiene abbastanza conto che non tutto sarà così mega, ma ci saranno anche queste... E il problema è cosa succede dopo, perché naturalmente qui bisogna affrontare anche il discorso del salario, cioè tu prenderai poi una paga lì dove lavori, cosa succede? Secondo quest'autore il discorso è questo, che non è che lo specifica chiaramente in che modo avviene poi, però in sostanza si tratta di una paga, cioè in che modo avviene la retribuzione, in sostanza si tratta di una paga, non so bene in che forma, se di carta di credito, di... bisogna anche dire che quest'autore basa gran parte del suo discorso su un mondo ampiamente informatizzato, ampiamente avanzato in termini di informatici, e quindi è pensabile anche una soluzione di questo tipo qui, però sicuramente ci vorranno anche dei sistemi che non sono semplicemente basati sul baratto per far funzionare l'economia a piccola scala, insomma, l'economia dei singoli produttori, delle singole persone. E questo qui non secondo me è un aspetto che non viene molto sviluppato e andrebbe aggiunto nell'economia di questo discorso qui. E poi passa naturalmente il discorso ai consumatori. I consumatori, che abbiamo visto è l'unità globale, allora lì qui, attenzione, bisogna subito fare un chiarimento. Lui parte dal presupposto che le unità produttive producano abbastanza per garantire a ognuno un reddito per sopravvivere. Questo vale naturalmente per bambini e anziani, malati, eccetera, cioè per chi non può entrare, non può partecipare alla produzione, no? Ovviamente, sempre partendo dal presupposto che forse non, su questo non sono stato molto chiaro, però è importante che venga chiarito che in questo contesto di lavoro bilanciato le paghe sono grosso modo identiche. Devo aggiungere che un'altra particolarità di questo autore è di aver sviluppato il concetto di retribuzione in base all'impegno, e questo è un discorso anche che va un attimino affrontato, perché poi il consumo alla fine si basa su quello che hai ottenuto. Lui sostiene a livello globale la retribuzione in base all'impegno non crea squilibri, perché sarà comunque minima, non puoi basarti un arricchimento o la costruzione di una fortuna su questa differenza. Puoi basare però un consumo in più. Ecco, uno per esempio che ha la passione dell'Harley Davidson, lavorando qualche ora in più o lavorando con maggior impegno potrà soddisfare questa sua passione. Chi non lo fa, poraccio, resterà senza e buonanotte al secchio, no? E questo... Ma quel cilo. E questo è... Però appunto attenzione che la differenza è comunque minima. È chiaro che questo discorso del retribuzione in base agli impegni e al sacrificio è un discorso che può essere mal visto, può essere interpretato anche male. Allora praticamente è un salario dato in base al merito, è un salario dato, è una specie di cottimo questo qui che state introducendo, e non è così, perché l'impegno che lui sostiene è l'impegno che tu scegli per soddisfare un surplus, una tua esigenza, che nulla ha a che fare col livello garantito di reddito che tu hai. Cioè tu comunque mangi e soddisfi i tuoi bisogni primari. Dopo, se hai delle desideri voluttuari in più, sta a te conquistarteli, no? Non c'è niente di strano alla fine in questo discorso. E lui ha optato appunto per questa unità di misura che è l'impegno, che è un pochettino bizzarra in effetti, perché non si capisce molto bene tecnicamente come fai a misurare l'impegno di una persona. Invece le ore di lavoro le conti, però appunto lui sostiene che la misura delle ore di lavoro non è molto corretta, perché uno può anche lavorare 10 ore e non far niente, ed è vero, succede, non è che sia una cosa strana. E quindi lui dice questo, si baserà poi la valutazione che farà il consiglio di reparto, consiglio degli operai o dei lavoratori di quell'azienda lì, che bilanceranno appunto questo surplus che tu fai, fermo restando che tu devi comunque, se tu hai un posto grande soddisfazione lavorativa, devi bilanciare questo tuo privilegio con mansioni tipo a pulire i pavimenti o fare qualsiasi altra cosa di minor interesse, insomma. E questo lui lo applica anche a livello di azienda. Per esempio, se un'azienda, lui fa l'esempio concreto, perché lui tra l'altro ha sviluppato un discorso del genere concretamente in un'azienda una casa editrice, no? E lui dice, lavorare in una casa editrice, sommando tutte le mansioni che si fanno in una casa editrice, è più bello che lavorare in un altro posto, non so, nel servizio raccolta rifiuti urbani o qualsiasi altra cosa. E allora lui dice, ecco, in questo caso, se io ho il privilegio di lavorare in una ditta di questo tipo, sarà poi anche mio impegno, mio dovere di contribuire ai lavori socialmente utili ma meno interessanti con dei lavori di questo tipo, appunto 2 ore di raccolta dei rifiuti alla settimana, qualcosa del genere. E questo qui ricorda un pochettino il comunismo cinese, poi, no? Che l'aveva un po' applicato, tu studente, però 2 anni lavorare nei campi. Cioè, c'è un po' il ricordo di questo periodo, che non so se è ancora applicato attualmente in Cina, ma per molti anni c'era questo discorso. E però ecco, questo per concludere sul lato produzione, però eravamo già passati a vedere un attimino l'aspetto consumatori, l'altro aspetto che appunto è di novità in questo discorso rispetto a altre proposte di organizzazione diversa della società, perché lui pur sostenendo l'assoluto diritto del consumatore a una libera scelta di quello che vuoi consumare, sostiene comunque che nella situazione in cui ci troviamo dobbiamo bilanciare anche i consumi. Dobbiamo bilanciare i consumi per motivi di giustizia sociale, per motivi di spreco di risorse, per motivi scarsezza anche di risorse. E quindi saranno i vari comitati di quartiere, eccetera, che stabiliranno un insieme di consumi che vengono proposti da ogni singolo partecipante della comunità, per trasmettere poi queste informazioni al livello superiore di gestione, no, del comitato, al fine che questi qui possano poi informare le varie realtà produttive delle necessità concrete che ci sono, in modo che la produzione sia bilanciata col bisogno effettivamente espresso dalle comunità, tot biciclette, tot automobili, tot chili di riso, tot latte, eccetera, quello che è, insomma. Ecco, che tutti questi beni vengano prodotti non in surplus, cioè che non ci sia un'incentivazione al consumo, ma che ci sia una produzione funzionale ai bisogni espressi dal singolo e poi dalle comunità. Il bilanciamento, e lui punta molto su questo discorso del bilanciamento, il bilanciamento fra il tuo bisogno e quello che la società può darti avviene appunto tramite questi comitati che raccolgono e trasmettono. Poi la distribuzione concretamente dovrebbe avvenire in negozi, cioè dopo uno va, quindi con la sua carta di credito, i soldi, quello che, è, che ha ricevuto, va e prende quello che sceglie, cioè nel senso che non è che se l'unità di consumo dice 100.000 tonnellate di yogurt e dopo una sola qualità di yogurt, ci sarà quello alla fragola, quello della banana, quello dietetico, quello... e quindi tu vai nel negozio e scegli quello che più ti aggrada, non è che poi ci sia un discorso di uniformizzare i desideri e i bisogni della gente. E onde facilitare questa pianificazione nel complesso della società, cioè quindi quello che lui chiama l'allocazione, ci sono i comitati di assistenza che hanno principalmente una funzione dal lato produttivo di assistere all'occupazione, cioè di uno che è stufo di lavorare in un posto, di trovare un altro posto di lavoro, in realtà è delle specie di agenzie del lavoro, in modo di non lasciare nessuno per strada che non voglia starci per strada. E dal lato del consumo invece delle agenzie statistiche che bilanciano, rilevano, poi bilanciano le disponibilità, risorse, materie prime, disponibilità di fabbriche che producono quel dato bene, eccetera, e i bisogni richiesti. E poi c'è un processo di contrattazione che si inizia. Questo processo di contrattazione funziona così che l'unità di assistenza al consumo praticamente informa i consigli dei consumatori di quello che loro hanno mandato, i loro desideri, loro li informano, questo c'è, questo non c'è, eccetera, quindi dovete riformulare i vostri bisogni in base a quello che lato produttivo può darvi, insomma. E in questo modo praticamente lui prevede il bilanciamento complessivo dei bisogni sociali. Lui dice la mia è una visione che si basa non tanto sulla soddisfazione dei bisogni, ma piuttosto sulla retribuzione dell'impegno, e lo fa questo discorso, anche se secondo me è, in realtà è una forma di soddisfazione dei bisogni a ciascuno secondo il suo bisogno, però lo fa facendo questo discorso: guardate che io posso immaginarmi un altro tipo di società funzionante con un'economia diversa, solidale, autogestita, eccetera. Però non posso immaginarmi una soddisfazione dei bisogni se chi ha questi bisogni non partecipa alla produzione dei beni di cui necessitiamo. E questo lo fa in polemica con il movimento anarchico, anche se poi lui dice, adesso sicuramente mi ha perso il posto, e lui dice... Eppure c'è un senso alla base di questa preoccupazione, in particolare per alcuni critici anarchici, quello che lui praticamente non vuole rispondere a questo tipo di sollecitazione di soddisfare i bisogni anziché privilegiare la produzione, no? Poi continua, il che è abbastanza ironico, dato che Parecon, cioè questa economia partecipativa viene abbreviata in Parecon, dato che Paragon è fondamentalmente un modello economico anarchico che elimina le gerarchie rigide e favorisce l'autogestione. Ecco, è curioso, però lo dico in conclusione solo per curiosità, che l'unità di vita primaria che lui ipotizza in un modello descrittivo, per fare un esempio, lui la chiama comunità Emma Goldman, che già mi sembra che sia un po' indicativo su quale direzione poi questo autore si muove. E se voi leggete la bibliografia finale, gli unici autori teorici non specialisti di economia moderna, ecco, attuale, sono autori anarchici, no? Quindi i riferimenti sono abbastanza precisi e puntuali, e non credo che possiamo così immaginarci che questo autore abbia idee, finalità diverse da quelle che lui di quelle che lui descrive. Cioè, lui veramente tenta di proporre un modello di organizzazione economica che può risolvere determinati problemi, secondo me non tutti, secondo me non in modo congruente, tutti, ci mancherebbe, giustamente anche lui dice, poi spesso lo dice, poi ognuno si organizzerà come gli pare, piace, questo lì è abbastanza naturale, però dà comunque uno scheletro di un modello di organizzazione economica che può essere utile per colmare un po' questo vuoto. E qui in Svizzera abbiamo avuto PM con Bolo Bolo che ha dato un contributo in questo senso, che ha permesso di aprire un po' un dibattito, ma quando uno dice ma voi cosa, come volete organizzarvi alla fine, di poter dare delle risposte. Secondo me questo è un altro contributo che ci aiuta ad andare in quella direzione, cioè poter dare delle risposte che non sono utopiche, nel senso è una visione e basta, ma che hanno degli addentellati nella società attuale che ne permettono la realizzazione parziale e poi progressiva più avanti nel tempo. È evidente, l'avevo detto già all'inizio, che il discorso che manca qui è come poi annidare questa economia partecipativa in un contesto sociale, politico. Questo lui non ne parla, dice semplicemente guardate, per quello che concerne l'organizzazione politica della società, cioè la struttura delle relazioni non economiche, deve essere semplicemente congruente con la struttura dei consigli su cui si basa l'organizzazione economica. Quindi un po' una risposta già la dà. E con questo io ho finito, però spero che... Ecco. Bravo Peter! Bravo! Come fate veramente?